Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Al piano di sopra, Beloved ballava. Un passo doppio, un altro passo, striscia, striscia avanti e poi fai l'inchino. Denver sedeva sul letto tutta sorridente e le forniva l'accompagnamento musicale. Non aveva mai visto Beloved tanto felice. Aveva già notato le sue labbra imbronciate spalancarsi soddisfatte per il piacere che le derivava dallo zucchero o da qualche notizia che Denver le aveva dato. La gioia, però, non l'aveva mai vista. Non erano passati neanche 10 minuti da quando Beloved era caduta per terra all'indietro, strabuzzando gli occhi, dimenandosi e tenendosi la gola. Ora, dopo essersi distesa per qualche secondo sul letto di Denver, era in piedi che ballava. «Dove hai imparato a ballare?» le chiese Denver. «Da nessuna parte, guarda un po' qua». Beloved appoggiò i pugni sui fianchi e cominciò a saltellare a piedi nudi. Denver rise. «Adesso tocca a te, avanti», disse Beloved. «Fatti pure avanti». La sua gonna nera ondeggiava tutta. Denver diventò fredda come il ghiaccio mentre si tirava su dal letto. Sapeva di essere grande il doppio di Beloved, però si sentì sollevare in aria, fredda e leggera come un fiocco di neve. Beloved la prese per mano e le appoggiò la mano libera sulla spalla. Si misero a ballare e giravano su se stesse in quella stanzetta, e sarà stato il capogiro o il fatto di sentirsi insieme fredda e leggera, ma Denver rideva più non posso. Una risata contagiosa che contagiò Beloved. Tutte e due insieme, felici come due gattine, si dondolavano avanti e indietro, finché non si sedettero sul pavimento, esauste. Beloved lasciò andare il capo all'indietro, appoggiandosi contro il bordo del letto mentre cercava di riprendere fiato. Denver vide allora far capolino quella cosa che vedeva sempre per intero quando Beloved si spogliava per andare a letto. Con lo sguardo apertamente fisso su di lei, sussurrò: «Perché ti fai chiamare Beloved?» Beloved chiuse gli occhi. «Perché al buio mi chiamo Beloved?» Denver le si avvicinò con un guizzo. «Com'è laggiù dove stavi prima? Me lo puoi dire?» «Buio», disse Beloved. «In quel posto sono piccola. Qui sono così». Sollevò il capo dal letto, si sdraiò sul fianco e si raggomitolò tutta. Denver si nascose le labbra dietro le dita. «Avevi freddo?» Beloved si raggomitolò ancor di più e scosse il capo. «Caldo. Laggiù non si respira niente e non ci si può muovere». «Vedevi qualcuno?» «Un mucchio di gente. Laggiù ce n'è un sacco. Certi sono morti». «Hai visto Gesù e Baby Sacks?» «Non lo so. Non so come si chiamano». Si sollevò e si mise seduta. «Dimmi, come ci sei arrivata qui?» «Ho aspettato. Poi sono arrivata sul ponte. Sono rimasta lì, al buio, poi alla luce del giorno, poi al buio, poi alla luce del giorno. È durato tanto». «Sei stata sul ponte tutto questo tempo?» «No. Dopo, quando sono uscita». «Perché sei tornata?» Beloved sorrise. «Per vederla in faccia». «La signora? Seth?» «Sì, Seth». Denver si sentì come ferita, sminuita dal fatto di non essere lei il motivo principale del ritorno di Beloved. «Non ti ricordi quando giocavamo insieme, vicino al torrente?» «Io ero sul ponte», disse Beloved. «Mi hai visto sul ponte?» «No, vicino al torrente, il corso d'acqua che c'è laggiù dietro i boschi». «Oh, io ero proprio nell'acqua. Ho visto tutti i suoi diamanti laggiù. Potevo toccarli». «Che cos'è che te l'ha impedito?» «Lei mi ha lasciato da sola», disse Beloved. Alzò lo sguardo per incontrare quello di Denver e aggrottò le sopracciglia. «Forse. Forse no. Potevano essere stati gli esili graffi sulla fronte. ad aver dato quell'impressione. Denver deglutì. Non ci lascerai mica, vero? Disse. No, mai. Il mio posto adesso è qui. All'improvviso Denver, la quale stava seduta a gambe incrociate, si lanciò in avanti e le afferrò il polso. Non dirglielo. Non far sapere alla signora chi sei, ti prego. Mi hai sentito? Non dirmi quello che devo fare. Non ti permettere mai e poi mai di dirmi quello che devo fare. Ma io sto dalla tua parte, beloved. È di lei che ho bisogno, solo di lei. Tu te ne puoi anche andare, ma è lei che devo avere. I suoi occhi, neri come il cielo notturno, divennero due fessure. Io non ti ho fatto niente, non ti ho mai fatto del male, non ho mai fatto del male a nessuno, disse Denver. Nemmeno io. Che hai intenzione di fare? Stare qua. Il mio posto è qua. Anche il mio posto è qua. Allora resta, ma non dirmi mai più quello che devo fare. Non ti ci provare mai più. Stavamo ballando. Nemmeno un attimo fa stavamo ballando insieme. Su, ricominciamo. Non ho voglia. Beloved si alzò e si distese sul letto. Il silenzio tra loro strideva lungo le pareti come uno stormo di uccelli terrorizzati. Infine, davanti al pericolo di una perdita insopportabile, Denver riprese il controllo. Raccontami di Seth, le disse Beloved. Raccontami come ti ha fatto in quella barca. Non mi ha mai raccontato tutta la storia, rispose Denver. Raccontamela lo stesso. Denver si arrampicò in cima al letto e incrociò le braccia sotto il grembiule. Non era più andata nella sua stanza tra gli alberi dal giorno in cui, dopo il circo, avevano visto Beloved seduta su quel ceppo e fino a quel momento terribile. Non le era mai venuto in mente di non esserci più andata. Laggiù non c'era nulla che questa ragazza sorella non potesse fornire in abbondanza. Batticuore, sogni, compagnia, pericolo, bellezza. Deglutì due volte per prepararsi al racconto, per ricavare dalle corde che aveva ascoltato per tutta la vita una rete in cui poter impigliare Beloved. Dice che aveva delle buone mani. La ragazza bianca, così dice, aveva delle braccine sottili, però delle buone mani. Dice che lo aveva notato subito. Dice che aveva dei capelli che bastavano per 5 teste e delle buone mani. Credo che siano state quelle mani a far pensare a Seth che poteva farcela, a portarci tutte e due dall'altra parte del fiume. Ma era stata la bocca a non farle venire paura. Dice che coi bianchi non si può mai sapere, non si sa mai come reagiscono. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Ma se uno osservava la bocca, a volte lo capiva da quello. Dice che questa ragazza tirava fuori un fiume di parole, però attorno alla bocca non c'era cattiveria. Ha portato la signora in quella baracca e lì le ha strofinato i piedi, e questo, tanto per cominciare, era già qualcosa. La signora non pensava che avesse intenzione di consegnarla alla legge. Se uno consegnava chi scappava, gli davano dei soldi. E lei non era sicura che questa ragazza, Amy, non avesse bisogno di soldi più di ogni altra cosa al mondo, visto che non faceva altro che parlare di comprarsi del velluto. Che cos'è il velluto? È una stoffa morbida e spessa. Continua. A ogni modo, le ha sfregato i piedi, finché la signora non se li è sentiti di nuovo. Dice che ha pianto, tanto le faceva male, però ha capito che forse poteva farcela ad arrivare dalla nonna, Baby Suggs, e chi è? L'ho appena detto, mia nonna. È la madre di Seth? No, la madre di mio padre. Continua. Gli altri erano già tutti lì, i miei fratelli e la bambina. Li aveva mandati avanti ad aspettarla da nonna Baby. Così, per arrivare lì, ne ha dovute sopportare di tutti i colori. E questa ragazza qui, Amy, l'ha aiutata. Denver si fermò e sospirò. Ora veniva la parte della storia che amava di più. Ora compariva lei. E amava quella parte perché riguardava solo lei. Però, allo stesso tempo, la odiava perché sentiva che in qualche posto c'era ancora un conto da pagare. E a pagarlo doveva essere lei, Denver, Però a chi dovesse pagarlo o con che cosa, questo le sfuggiva. Ora, osservando il volto attento e avido di Beloved, il suo modo di assimilare ogni parola, di fare domande sul colore, sulla dimensione delle cose, la sua gran fame di sapere, Denver cominciò a vedere quello che stava dicendo, non soltanto a sentirlo. C'è questa schiava di 19 anni, uno più di lei, che attraversa il fitto bosco per arrivare ai figli lontani. È stanca, forse impaurita, e forse si è anche persa. Ciò che è più importante è che è da sola e dentro di sé porta una bambina e quindi deve pensare anche a lei. Sulle sue tracce forse ci sono i cani, probabilmente i fucili e di sicuro i denti muschiati. Non ha paura della notte perché ha il suo stesso colore, ma di giorno ogni suono le sembra uno sparo oppure il passo silenzioso dei suoi inseguitori. Denver adesso, grazie a Beloved, poteva vedere la scena, provarne le sensazioni, provare quel che doveva aver provato sua madre, vedere quel che doveva avere visto. «Miss, che ci fa su queste colline? Non è posto per lei?» «Senti chi parla. È posto più per me che per te. Se ti prendono, ti tagliano la testa. A me non dà la caccia a nessuno, ma di sicuro c'è qualcuno che dà la caccia a te.» Con le dita, Amy schiacciò la pianta dei piedi della schiava. «Di chi è quel bambino?» Seth non rispose. «Non lo sai nemmeno. Oh, Gesù, vieni qua a vedere.» Amy sospirò e scosse il capo. «Fa male?» «Un pochino.» «Buon per te, più fa male meglio è. Se non fa male non può guarire. Perché ti agiti così?» Seth si tirò su, sui gomiti. Stare distesa tutto quel tempo le aveva provocato un gran fastidio tra le scapole. Il bruciore ai piedi e il bruciore alla schiena la facevano sudare. «Mi fa male la schiena», disse. «La schiena? Ah, ragazza mia, sei proprio un disastro. Girati che ti do un'occhiata.» Con uno sforzo enorme, tale da farle venire la nausea, Seth si girò sul fianco destro. Amy le aprì il vestito dietro e, quando vide la schiena, esclamò: «Ah! Oh, Gesù, vieni qua a vedere.» Seth immaginò che doveva essere grave, perché dopo quell'invocazione a Gesù, Amy per un po' non disse niente. Nel silenzio che seguì, con Amy stranamente ammutolita, Seth sentì le dita di quelle buone mani sfiorarle delicatamente la schiena. La sentiva respirare, però la ragazza bianca continuava a non dire niente. Seth non riusciva a muoversi, non riusciva a stare distesa né di pancia né di schiena, e continuare a stare sul fianco voleva dire far pressione su quei piedi che la facevano urlare di dolore. Infine Amy parlò con quella sua voce da sonnambula. «Lu è un albero. Un albero di ciliegio, guarda, qui c'è il tronco, è rosso, spaccato in due ed è pieno di linfa, e qui si dividono i rami, hai un sacco di rami, anche delle foglie a quanto pare, e accidenti, guarda un po' qua se questi non sono fiori, dei fiorellini di ciliegio bianchi uguali. Sulla schiena hai tutto un albero in fiore. Chi lo sa che cosa Dio aveva in mente, dico io. Anche a me mi hanno frustata, però non ho mai visto niente del genere. E dire che Mr. Buddy aveva la mano destra pesante, ti frustava anche solo se lo guardavi fisso negli occhi, e come se ti frustava. Una volta l'ho guardato proprio dritto negli occhi, lui ha preso l'attizzatoio, me l'ha tirato addosso. Forse aveva capito quello che stavo pensando.» Seth gemette. Amy tagliò corto con le sue fantasticherie, almeno il tempo necessario a spostare i piedi di Seth su delle pietre ricoperte di foglie. Così il peso ora sarebbe gravato sulle caviglie. «Va meglio così?» Dio mio, che brutto modo di morire, perché tu morirai qui, lo sai. Non c'è scampo, ringrazia il creatore che sono arrivata io, così non morirai all'aperto tra quelle erbacce. Se venivano i serpenti ti mordevano, gli orsi ti mangiavano tutta. Forse era meglio se fossi rimasta dove eri, Lu. Lo vedo dalla tua schiena perché non hai fiatato. Chiunque t'abbia piantato quell'albero batte di gran lunga, Mr. Buddy. Sono contenta di non essere al posto tuo. Beh, metterci delle ragnatele è tutto quello che posso fare per te, credo. Queste qua dentro non bastano. Vado a vedere fuori. Si potrebbe usare il muschio, ma qualche volta dentro ci sono degli animaletti, delle altre porcherie. Forse dovrei aprire quei fiori per far scorrere il pus. Che ne dici? Chi lo sa che cosa Dio aveva in mente, mi chiedo io. Qualche cosa devi avere pur fatto. Adesso non scappare via da nessuna parte. Seth la sentì allontanarsi tra i cespugli, canticchiando, mentre se ne andava a caccia di ragnatele. Un canto sul quale concentrò l'attenzione, poiché non appena Amy era schizzata fuori, la bambina aveva cominciato a stirarsi. Che cosa aveva in mente Dio? Una buona domanda, pensò Seth. Amy le aveva lasciato il vestito aperto di dietro. Un refolo di vento le raggiunse la schiena, mitigando un po' il dolore. Un sollievo che le permise di sentire il dolore meno intenso provocatole dalla lingua piegata. Amy fece ritorno con due manciate di ragnatele, le ripulì dagli insetti rimasti intrappolati e ornò così la schiena di Seth, dicendo che era come addobbare un albero di Natale. The last kind word I hear my dad say, love, the last kind word. A quel punto, dopo aver terminato la sua opera di restauro, si alzò e, camminando su e giù per la baracca, gli occhi dai movimenti lenti resi più chiari dal sole che le accendeva i capelli, iniziò a cantare. E posa le mani sulla testina della mia cara stanca piccolina, e le mani bianche son come un velo, non lasciano fuori un ricciolo solo, copron di vezzi e di carezzine quelle sue seriche treccine, scivolan sulle palpebre le mani, acquietan quei due occhi castani, così a placar le agitazioni viene la dama dagli occhi a bottoni. Dopo la canzone, Amy se ne rimase seduta in silenzio. Poi ripeté l'ultimo verso, prima di alzarsi definitivamente, uscire dalla baracca e allontanarsi di qualche passo per appoggiarsi a un giovane frassino. Quando ritornò, il sole era sceso nella valle sottostante e loro si trovavano molto più in alto, immerse nella luce azzurra del Kentucky. «Non sei morta, Lu? Lu?» «Non ancora. Facciamo una scommessa. Se ce la fai a passare la notte, ce la fai a salvarti». Amy sistemò di nuovo le foglie per renderle più comode e si inginocchiò per massaggiarle di nuovo i piedi gonfi. «Gli do un'altra bella strofinata!» E quando Seth sbuffò, stringendo i denti per il male, Amy le disse «Zitta, zitta, tieni la bocca chiusa!» «Vedi di non morirmi durante la notte, hai capito? Non voglio vedermi davanti la tua brutta faccia nera che mi ossessiona. Se devi morire, vattene da qualche altra parte dove non ti possa vedere, hai capito?» «Ho capito», rispose lei. «Farò il possibile, miss». Seth non si aspettava mai più di riaprire gli occhi. Così, quando sentì le dita del piede pungolarle il fianco, ci mise un po' a risvegliarsi da quel sonno che lei credeva essere la morte. Si mise seduta, tutta rigida, tremante, mentre Amy le esaminava la schiena umida. «Fa spavento», disse Amy. «Però ce l'hai fatta! Oh Gesù, vieni qua a vedere! Lui ce l'ha fatta! Grazie a me! Sono brava io a curare le malattie! Ce la fai a camminare? Che dici? Devo fare pipì in un modo o nell'altro. Vediamo se ce la fai a camminare con quei piedi!» Non era esattamente piacevole, però era possibile. Così Seth avanzò zoppicando, appoggiandosi prima a Amy, poi a un alberello. «È merito mio, sono brava con le malattie, vero?» «Sì», rispose Seth, «è proprio brava. Dobbiamo andarcene da questa collina. Avanti, su, ti accompagno fino al fiume. Dovrebbe andarti bene. Seth si guardò la pancia e la toccò. La bambina era morta. Lei non era morta nella notte, ma la bambina sì. Se era così, ora non c'erano altri ostacoli. «Non hai fame?» le chiese Amy. «Non ho niente, miss. Ho solo fretta». «Ehi là, calma! Vuoi delle scarpe?» «E come?» «Ho trovato il modo!» disse Amy. Ed era vero. Prese lo scialle di Seth, lo strappò, riempì di foglie due pezzi di stoffa e glieli legò ai piedi, chiacchierando tutto il tempo. «Quanti anni hai, Lou?» «Sono 4 anni che mi viene il sangue, però non aspetto bambini da nessuno io». «Lo so», disse Seth. «Deve andare a Boston». A mezzogiorno l'avvistarono, poi vi si avvicinarono e lo sentirono. Nel tardo pomeriggio potevano dissetarsi alla sua acqua, se volevano. «Eccoci qua, Lou. Gesù ti ha visto». Seth osservava le acque scure che le si stendevano davanti. Avrebbe dovuto fenderle con un solo remo, in una barca inutilizzabile, lottando contro una corrente che sarebbe sfociata nel Mississippi a centinaia di chilometri da lì. Le sembrava quasi di essere arrivata a casa e la bambina, tutt'altro che morta, dovette pensare la stessa cosa. Non appena si avvicinò al fiume, le acque di Seth si ruppero, quasi a volervi sfociare dentro. La rottura, seguita dai segnali sempre più acuti delle doglie, le fece inarcare la schiena. «Che cosa fai adesso?» chiese Amy. «Dove ce l'hai il cervello? Smettila subito! Ho detto smettila, Lou! Sei l'essere più stupido di questo mondo! Lou! Lou!» Seth non riuscì a immaginare un posto migliore dove potersi rifugiare se non dentro la barca. Aspettò le dolci pulsazioni che seguivano il dolore intenso. Nuovamente in ginocchio, riuscì a scivolare nella barca che ondeggiò sotto il suo peso. Ebbe appena il tempo di poggiare saldamente sulla panca i piedi avvolti nelle foglie, che un altro strappo le fece mancare il fiato. Ansimando sotto le 4 stelle estive, allargò le gambe e le appoggiò sui bordi della barca perché ecco spuntare la testa, come le faceva notare Amy. Come se lei non lo sapesse, come se quello strappo fosse la rottura dei tronchi di un noce di uno dei paranchi o lo squarcio dentellato di un fulmine nel cuoio del cielo. La bambina s'era bloccata, a faccia in su, e stava annegando nel sangue di sua madre. Amy smise di invocare Gesù e cominciò a maledire il padre. «Spingi!» gridava Amy. «Tira!» sussurrava Seth. E quelle mani forti si misero al lavoro una quarta volta di buona lena, perché le acque del fiume, filtrando da ogni buco che trovava, era già arrivata ai fianchi di Seth, la quale allungò un braccio all'indietro e s'aggrappò a una cima mentre Amy cercava di far presa delicatamente sulla testa della bambina. Quando dall'alveo del fiume si levò un piede che si mise a scalciare il fondo della barca e il di dietro di Seth, questa pensò che ormai era fatta e si concesse un piccolo svenimento. Quando rinvenne, non sentì piangere, ma solo il tubare di Amy che cercava di incoraggiare la bambina a reagire. Non si sentì alcun cenno di vita per così tanto tempo che entrambe credettero fosse morta. Ma all'improvviso Seth si inarcò ed espulse la placenta. A quel punto la bambina si mise a piagnucolare e Seth osservò la scena. 50 centimetri di cordone ombelicale che pendevano dalla pancia della neonata, la quale tremava nell'aria fresca della sera. Amy la avvolse nella propria gonna e le due donne, tutte bagnate e appiccicose, si arrampicarono a riva per vedere che cosa Dio avesse davvero in mente. Le spore di felce azzurra che crescevano nei fossi lungo gli argini del fiume avanzavano ondeggiando verso l'acqua in argentee file azzurrine, difficili da scorgere a meno che uno non si trovasse in mezzo o almeno vicino, sdraiato proprio sulla sponda del fiume, quando i raggi del sole sono bassi ed esangui. Spesso le si prende per insetti, invece sono semi nei quali riposa un'intera generazione, fiduciosa nell'avvenire. e per un attimo è facile credere che ogni seme avrà il suo futuro, che compirà quanto è contenuto nella spora, che vivrà fino all'ultimo giorno della sua vita come programmato. Questo attimo di certezza non dura più di tanto, più a lungo forse della spora stessa. Venne l'imbrunire e Amy disse che doveva andarsene, che non voleva farsi sorprendere in pieno giorno su di un fiume pieno di attività con una fuggiasca. Dopo essersi sciacquata le mani e la faccia, Amy si alzò in piedi e osservò la bambina infagottata e legata al petto di Seth. «Non saprà mai chi sono. Glielo dirai? Le dirai chi l'ha tirata fuori in questo mondo?» Alzò il mento, guardò lontano dove prima c'era il sole. «È meglio se glielo dici. Mi hai capito? Dille che è stata Miss Amy Denver di Boston.» Seth sentì che si stava addormentando e che il sonno sarebbe stato profondo. Proprio un attimo prima di crollare pensò: è un nome carino, Denver, proprio carino. This is it very well. Back in my bed at the party door. Yeah.